Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Referendum, il silenzio di Berlusconi dopo la bocciatura delle leggi del governo, la Lega annuncia un chiarimento a Pontida. Debito pubblico, nuovo record, secondo Banca Italia sale anche il fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, più 2,6%. Gli artigiani chiedono un fisco più leggero, lavoriamo 36 giorni all'anno per la burocrazia, dicono. Boom dei social network, ma gli italiani restano teledipendenti, lo dice il garante delle comunicazioni nella relazione annuale. 45 arresti a Roma per evasione fiscale, nell'operazione finisce in manette anche il presidente di Confcommercio. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, benvenuti a questa edizione di GR24. Referendum, il giorno dopo, di questo si parla naturalmente perché dopo l'ampio quorum e la valanga di sì arrivati sulla consultazione elettorale di domenica e di ieri, si parla di un duro colpo per il governo. Erano leggi del governo quelle che sono state bocciate infatti dal referendum. Allora, in vista della verifica già prevista dal calendario parlamentare che si terrà il 22 di giugno alle Camere, è la Lega ad annunciare un chiarimento da Pontida, ma cominciamo a fare il punto sulla situazione con Elisabetta Fiorito. Buongiorno. Sì, buongiorno. C'è inquietudine nella maggioranza dopo il voto del referendum. Fabrizio Cicchitto, capogruppo PDL, spiega che non è stato un voto politico, ma nel suo partito non tutti la pensano allo stesso modo, a cominciare dal ministro degli esteri Franco Frattini, che parla di un segnale più diretto delle amministrative. La metà dei nostri elettori ha ritenuto che l'azione del governo meritasse una correzione forte. Dello stesso parere il governatore della Lombardia Roberto Formigoni, che parla di un messaggio fortissimo a Berlusconi e Bossi, avrebbero votato sì a qualunque quesito. E c'è attesa per le prossime mosse della Lega, anche se stamattina il capogruppo Marco Reguzzoni smentisce che il Carroccio sia disponibile ad un governo tecnico di transizione. La Lega ha lasciato libertà di voto sui referendum e la gente ci dice di fare le riforme. Ma il sindaco di Verona, Flavio Tosi, proprio a Radio 24, confessa che la gente è stanca di ascoltare bunga bunga e toghe rosse. Adesso bisognerà vedere cosa succederà domenica al raduno di Pontida, dove è stato promesso un chiarimento. Dall'opposizione del segretario PD Pierluigi Bersani continua a chiedere le dimissioni del Premier e del Governo, mentre per Antonio Di Pietro si tratta di una strumentalizzazione politica. E per il momento qui da Roma è tutto, a voi studio. Grazie Elisabetta Fiorito. E a proposito, c'è una dichiarazione proprio di questi istanti del ministro Maroni, che dice: un governo politico deve avere il coraggio di fare scelte popolari o impopolari, ma scelte che vanno nella direzione giusta. Confermo la mia convinzione che questo sia il modo migliore per uscire da questa situazione difficile per noi. Così Maroni parlando a Varese. E non ci poteva essere modo migliore di queste parole per salutare il direttore della Padania, Leonardo Boriani. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Eccoci qua, lei titola oggi sul quotidiano La Padania, sberle e coraggio. Perché prima di tutto le chiediamo, gli elettori, secondo quello che voi dite, vi hanno preso in qualche modo a sberle? Ma forse ha ragione Tosi a dire che c'è una stanchezza sugli argomenti, forse c'è stata un po' di, non so come sottolinearlo, di superficialità nell'approcciare queste amministrative. Quello che è sempre stato il campo di battaglia della Lega, uno dei punti di forza, il territorio, è stato un po' trascurato. Io dico che nella vita non bisogna mai dare nulla di scontato. Ecco, forse tutto questo insieme ha provocato queste sberle. È fuor di dubbio, però, voglio aggiungerlo, che c'è anche altro, bisogna tenere presente di un cambiamento negli umori e nelle intenzioni del popolo. Non sono più i media tradizionali a fare politica, c'è tutto un mondo che è vicino ai media tradizionali e sappiamo di cosa si sta parlando, quindi c'è proprio tutta un'atmosfera da rivivere. Senta, e a proposito di questa atmosfera che sta cambiando, Che dire anche del merito dei quesiti? Alcune analisi evidenziano come il quorum sia stato spinto anche in zone particolarmente leghiste del nord Italia. Sappiamo che Zai è andato a votare per esempio con dei sì. Com'è possibile che su temi qualificanti come la giustizia, l'energia, il nucleare, i servizi, nel caso dell'acqua, la Lega sia in disaccordo con le scelte che hanno qualificato anche fino ad ora la linea del governo e del PDL? Ma guardi, io non parlerei di disaccordo. Bossi ha lasciato mani libere e questa è la dimostrazione che la Lega sia un grande partito democratico. Non abbiamo invitato la gente ad andare al mare. Ciascuno doveva votare secondo coscienza e la gente ha votato. Questo è il punto di partenza di un'analisi che si conclude con l'altro sostantivo del titolo, il coraggio. Ci vuole in questo momento, sono d'accordo col ministro Maroni, che bisogna avere coraggio di grandi scelte, anche impopolari o più popolari che mai, però è un momento decisivo. Bisogna analizzare quello che è accaduto in questi ultimi 25 giorni, perché effettivamente si è trattato di uno tsunami in un mondo politico che sembrava, passatemi il termine, anche se fosse improprio, addormentato, e invece è accaduto di tutto. Bisogna saperlo analizzare, ma sapersi anche proiettare immediatamente nel futuro. Pontide dietro l'angolo. Ecco, appunto, molti esponenti della Lega anche oggi, anche a Radio 24, dicono il chiarimento lo farà Bossi da Pontida, saranno parole importanti. E allora al direttore della Padania, Leonardo Boriani, non possiamo non chiederlo un'anticipazione, un assaggio. Secondo lei che cosa, oppure quello che secondo lei potrà dire Bossi a Pontida? Io non posso dire assolutamente niente. È chiaro che sono condizioni irrinunciabili per il movimento e delle quali Berlusconi, il premier, deve tener conto nel suo discorso che avverrà alle Camere due o tre giorni successivi. Si parla, io credo che la base, e questo è un po' la dimostrazione di tante lettere che riceviamo quotidianamente, è quello che riguarda le famiglie e le piccole e medie imprese, veramente in difficoltà in questi ultimi tempi. Vedo che il ministro Tremonti oggi ha parlato a Confartigianato e ha parlato di un giusto sistema con tre aliquote IRP, e qualcosa si sta muovendo. Io credo che una delle condizioni base fondamentali del discorso del segretario Bossi a Pontida sarà proprio, girerà attorno alle condizioni migliorative per famiglie e imprese. E allora grazie Leonardo Boriani, direttore della Padania, per essere stato con noi. Di Tremonti e le parole di cui lei parlava oggi a Confartigianato parleremo noi invece più avanti, tra pochissimo. Prima concludiamo questa pagina, che è una coda del voto referendario, perché a proposito del voto sul nucleare vogliamo sentire, vi proponiamo il parere di una nuclearista convinta, astrofisica, schierata però politicamente a sinistra, Margherita Hack, che dice ai nostri microfoni: me l'aspettavo, ma la ricerca non va abbandonata. Sentiamola l'intervista di Maria Luisa Pezzali. Me lo immaginavo e sarebbe stata una valanga di sì. Io ho sempre detto che l'energia nucleare sarà necessaria, che il pericolo maggiore oggi in Italia è proprio chi lo gestisce, perché abbiamo una classe politica che non è capace di gestire la ricostruzione dell'Aquila, di liberare Napoli dalla spazzatura, e figuriamoci, il nucleare è qualcosa di più pericoloso della spazzatura. Quindi il pericolo maggiore è proprio la gestione e il pericolo delle infiltrazioni mafiose. Però io credo che la ricerca vada continuata, perché non è che con le sole rinnovabili si potrà far fronte sempre al bisogno di energia. Certamente vanno sviluppate di più, però anche quelle presentano dei problemi. Penso si deve seguitare la ricerca, anche perché ci sono altre forme di nucleare più sicure, per esempio quella da fusione è ancora lontana da avvenire. Poi c'è questa fusione fredda e ancora non è chiaro se sia effettivamente una risorsa o no. Quindi chiude bottega e dire basta al nucleare non si può dire, si deve continuare la ricerca. Così dunque Margherita Hack sul referendum sul nucleare. Adesso i dati economici di giornata, che sono quelli sul debito pubblico forniti da Banca Italia. Si parla di un nuovo record per lo stock del debito, che ad aprile ha toccato 1.890,626 miliardi di euro. I dati sono quelli del bollettino sulla finanza pubblica, che segnalano anche che il debito delle amministrazioni pubbliche nel primo quadrimestre del 2011 è cresciuto del 2,58%. Aumentano tra l'altro anche le entrate fiscali del 6%. E anche di fisco, e soprattutto forse di fisco, si è parlato all'assemblea di Confartigianato a Roma. Il presidente di Confartigianato, Giorgio Guerrini, ha detto: sui contribuenti italiani pesano 54 miliardi di maggiore imposte rispetto alla media dell'Unione Europea, un carico tributario superiore di 3,5 punti del PIL. Guerrini ha anche ricordato che gli imprenditori italiani sprecano in burocrazia fiscale 36 giorni lavorativi all'anno, il 43% in più della media dell'Unione Europea. E sempre dal palco di Confartigianato le risposte del ministro dell'Economia Tremonti, che se da un lato dice il sistema con tre aliquote IRPEF credo sia quello più giusto, ma si tratta di una riforma più volte promessa, dall'altro spiega perché in Italia la pressione fiscale sia così alta. Sentiamo. Noi abbiamo circa il 46,5% del PIL di entrate calcolate a questo titolo. È molto alto, ma è meno per esempio della Francia, con una specifica. Dobbiamo pagare dai 70 agli 80 miliardi di interessi, molto più di quello che pagano gli altri paesi, e quindi di quello che ti entra un pezzo ti esce in automatico. E tuttavia, se anche i servizi non sono, come dire, oggetto, i servizi pubblici, della più ampia positiva considerazione, tuttavia ieri ero a un seminario e la Commissione Europea dava la tabella, il grafico, sulla sanità in Europa. E poi nel mondo. Dite quello che volete, ma grazie ai nostri infermieri, medici, dottori, all'insieme della cultura di questo paese, allo straordinario impegno di tutti, ma in quel grafico la sanità italiana stava al primo posto e quella americana all'ultimo. Questo dunque Tremonti dall'assemblea di Confartigianato. Adesso, prima delle altre notizie, un appuntamento. Era il 1911 quando si celebrò per la prima volta la giornata internazionale della donna. A un secolo di distanza, il festival Passepartout, che si tiene ad Asti fino a domenica prossima, celebra i primi 100 anni della donna sulla scena politica e sociale, con scrittori, filosofi, personaggi dello spettacolo che parleranno a proposito di questo argomento. Romolo Napolitano ha sentito per noi il direttore scientifico del festival, Alberto Sinigaglia. Il secolo della donna, perché sono 100 anni che si celebra in Europa la giornata della donna ed era quindi un anniversario pretesto. Anche quest'anno avete tanti ospiti, leggevo Luciano Violante, Monica Maggioni, Deborah Caprioglio. Appunto è venuto il presidente Violante, Edoardo Raspelli, verranno Margherita Oggero, Antonia Slan, Philippe Daveri, tante persone di diversa qualità e di diverso mestiere. Per esempio alcune tra le più celebri signore del vino, per esempio, anche quello conta, no? Per esempio importante sarà l'incontro con le soldatesse, con le donne in divisa. E con tutte loro praticamente sviscererete la femminilità, il tema della femminilità in ogni suo aspetto, è così? Il vivere al femminile, nella scuola, nella famiglia, nelle armi, nelle industrie, nella creatività artistica, nella creatività letteraria, nell'impegno sociale, e abbiamo escluso soltanto la politica. Il festival coincideva con troppe cose politiche per avere anche politica al suo bordo. 13 e 16 minuti, GR24, ben ritrovati. Nella prima parte abbiamo parlato delle conseguenze del voto referendario, il silenzio di Berlusconi dopo la bocciatura delle leggi del governo. A parlare la Lega, che annuncia un chiarimento di Bossi a Pontida. Intanto Maroni dice: serve il coraggio di fare scelte impopolari. E poi il debito pubblico, c'è un nuovo record storico secondo Banca Italia, sale anche il fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, più 2,6%. Intanto gli artigiani chiedono al governo un fisco più leggero, dicono: lavoriamo 36 giorni all'anno per la burocrazia. Adesso tutte le altre notizie. A cominciare dalle parole del presidente dell'autorità garante delle comunicazioni nella sua relazione annuale, che parla di un boom dei social network, ma del fatto che sostanzialmente gli italiani restano teledipendenti a farla da padrone sarebbero ancora le TV generaliste. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno. Così è ancora la televisione il veicolo principe per l'informazione, così per il 90% degli italiani, ed è poi il modello di TV tradizionale a restare vincente nonostante un apprezzabile aumento degli ascolti dei canali tematici. E quanto sottolinea il presidente dell'Authority nella sua relazione annuale al Parlamento, quanto al mercato televisivo rileva Calabro, Mediaset supera Sky nel 2010 e torna in testa alla classifica dei ricavi del settore, con la Rai sul terzo gradino del podio, ma con il canone non riscosso la Rai sarebbe il primo operatore, puntualizza Calabro, che definisce intollerabile il livello di evasione. Ma sentiamo un passaggio del suo intervento. È intollerabile il livello di evasione del canone. Con il canone non riscosso, la RAI sarebbe il primo operatore. Nelle mie precedenti relazioni ho fatto delle proposte per la riforma della RAI, che come tutte le altre non hanno avuto seguito. A ogni modo, nell'ottica di una maggiore trasparenza nella gestione del servizio pubblico, l'autorità si appresta a ridefinire principi e modalità degli obblighi di contabilità separata. Certo, la RAI dovrebbe avere maggiore considerazione per la qualità del suo servizio. Purtroppo, arrestare il declino della TV pubblica è una priorità non percepita come tale. Il garante punta poi il dito contro la scarsa diffusione della banda larga, le reti vecchie e nuove non crescono, né quelle fisse né quelle mobili, lamenta l'Authority. Su una cosa però gli italiani primeggiano: per l'uso di Facebook, sono i primi al mondo insieme al Brasile per la pirateria. E da Roma è tutto. Grazie Alessandra Schepisi. E sulla giustizia invece arriva un monito, questa volta dall'Europa. L'Italia deve aumentare l'impegno nella lotta alla corruzione, lo dice il Consiglio d'Europa, secondo il quale l'introduzione del processo breve rischierebbe di avere effetti controproducenti sulla lotta alla corruzione. È questo l'avvertimento lanciato da Greco, che è l'organismo del Consiglio d'Europa che si occupa della lotta alla corruzione, che in un rapporto sull'Italia diffuso oggi sottolinea anche che le autorità italiane non hanno dedicato la necessaria attenzione al fenomeno della corruzione. E a proposito proprio di corruzione, c'è stata una maxi operazione della Guardia di Finanza a Roma, 45 gli arresti, c'è finito di mezzo anche il presidente di Confcommercio Roma, ci spiega tutto Monica Ceravolo, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. L'inchiesta ha scoperchiato un complicato meccanismo di frodi finalizzato all'evasione fiscale, alla bancarotta fraudolenta e il riciclaggio. In carcere, come avete detto, tra gli altri anche il presidente di Confcommercio di Roma, Cesare Panbianchi, assieme con il suo socio Carlo Mazzeri, titolari dello studio di commercialiste Parioli a Roma, studio considerato dagli inquirenti il cuore dell'associazione che dietro la facciata avrebbe in realtà mirato alla sottrazione di beni e all'evasione fiscale. Oltre 300 le società coinvolte. Consulenti e professionisti finiti in carcere avrebbero offerto ai clienti un pacchetto chiavi in mano per depauperare le proprie aziende prima di trasferirle all'estero ed evadere così le imposte per oltre 500 milioni di euro. Operazioni che avvenivano grazie anche alla connivenza di funzionari di banca che omettevano di denunciare le operazioni sospette. Importante infatti in questa operazione il ruolo dei cosiddetti colletti bianchi, come sottolinea il procuratore aggiunto di Roma Nello Rossi, che ha coordinato l'inchiesta. Sentiamo. Siamo nel pieno, diciamo, della criminalità dei colletti bianchi, una criminalità che ha goduto di molte indulgenze, di molte sottovalutazioni, di molte distrazioni, e anche perché opera con meccanismi difficili da capire. Noi riteniamo che ci siano dei tecnici dell'economia e della finanza che abbiano avuto un ruolo preminente nell'immaginare una serie di tecniche di evasione fiscale, una serie di tecniche e dei meccanismi complessi di reati societari per ottenere poi quei risultati di sistematica evasione delle imposte. Che ogni euro che viene sottratto al fisco e allo Stato è anche un euro in meno in termini di sicurezza di futuro dei giovani. Questa è la posta in gioco. Questo accadeva a Roma. Grazie Monica Ceravolo per il racconto di questa operazione sull'evasione fiscale a Roma. E invece nel Casertano un'altra maxi operazione nel mirino delle autorità, il clan dei Casalesi, sentiamo. Ennesima confisca di beni a un imprenditore ritenuto vicino al clan casertano dei Casalesi. La DIA di Napoli ha infatti sequestrato stamani i beni per un valore complessivo di circa 1 milione di euro, tra cui quote di una società immobiliare con sede a Terni, riconducibile a Rocco Veneziano, 57 anni, di Castel Volturno, geometra e costruttore di recente, condannato per aver garantito assistenza al clan dei Casalesi per lo svolgimento di attività illecite nel settore edilizio, così come ci racconta Maurizio Vallone, il capocentro della DIA di Napoli. Era uno dei personaggi chiave del mondo imprenditoriale dei casalesi, che riusciva a indirizzare gli appalti pubblici, soprattutto dei comuni del Casertano, verso ditte apparentemente pulite. Solo sei giorni fa un altro imprenditore, Salvatore Ucciero, ritenuto il terminale dei casalesi nella gestione dello smaltimento e trasporto rifiuti, era finito in manette e gli erano state sequestrate aziende e beni per 40 milioni di euro. Ed è sempre di oggi un'operazione delle forze dell'ordine che ha portato all'arresto a Casal di Principe di 11 persone legate allo stesso clan casertano. L'operazione rientra nelle attività dei carabinieri finalizzate all'arresto del numero 1 della camorra casalese ancora in libertà, Michele Zagaria, latitante da oltre 15 anni. Michele Zagaria è sempre più isolato, l'attenzione investigativa da parte della magistratura e delle forze dell'ordine è fortissima e sicuramente ormai anche per lui comincia a essere tempo per giungere alla sua cattura. Paolo Picone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Parliamo di scuola e disabili, 200.000 gli studenti disabili, 95.000 gli insegnanti di sostegno e secondo gli osservatori la scuola italiana è sempre stata all'avanguardia nell'inserimento dei ragazzi disabili, ma ora è arrivato il momento di ripensare alcuni meccanismi, almeno così la pensano l'associazione 3L, Caritas Italiana, Fondazione Giovanni Agnelli, che hanno elaborato un rapporto e formulato varie proposte, fra cui l'istituzione di nuovi centri di risorse per l'integrazione, il CRI, che coordini anche faccia d'appunto di riferimento tra scuole e famiglie. Ma ci sono le risorse per una innovazione di questo tipo? Attilio Oliva, presidente dell'associazione 3L. L'ammontare delle risorse finanziarie impegnate dal nostro paese sul tema delle disabilità e della loro integrazione supera i 4 miliardi e quindi circa oltre il 10% o circa il 10% del totale che spende la scuola in Italia all'anno. Questo è determinato da 95.000 insegnanti di sostegno e 25.000 persone che rispondono agli enti locali e che collaborano con la scuola. Come vede, è un investimento enorme. La nostra tesi è che l'ammontare dell'investimento non va toccato, perché la scuola di oggi crea, che è una scuola di massa e di tutti, enfatizza una gamma di problemi che la scuola del passato non aveva. Basta pensare agli stranieri, tanto per fare un esempio. Il problema è che oggi sono spesi tutti su stipendi di insegnanti di sostegno, mentre noi riteniamo che ci vogliano interventi più intelligenti e più diversificati, perché le disabilità sono diversificate e la risposta non può essere unica e automatica con l'insegnante di sostegno. E ora un appuntamento, domani 15 giugno apre a Villa d'Este a Tivoli la mostra I Battaglisti, la pittura di battaglia dal XVI al XVIII secolo, in programma fino al 30 ottobre. Una cinquantina di opere realizzate dai maggiori pittori di battaglia dell'epoca, da Cercuozzi a Falcone, dal Bergognone a Simonini. Allora ce ne parla il curatore della mostra, Giancarlo Sestieri, al microfono di Adriana Fracchia. Questa mostra verte sulla pittura di battaglia quale genere autonomo a sé stante, cioè un genere che come alla pari della natura morta, del ritratto o del paesaggio, è svincolato da fini encomiastici o di committenza. E questa pittura come genere nasce in Italia nella prima metà del 600, in ritardo rispetto ai paesi fiamminghi dove era già in grande voga, sollecitata da una ricca borghesia sin dal 500. Questa mostra ci offre veramente una rassegna rilevante dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo. Attinge a collezioni private. Sono una cinquantina di opere, ma per lo più di artisti italiani. Tutti gli autori del 700 italiani, tranne un autore fiammingo che lavorava a Roma e che è stato inserito nella mostra, pittore fiammingo detto Manciola, perché aveva perso la mano destra e dipingeva con la sinistra, ha continuato a produrre con grande successo, dipingendo anche molti palazzi romani. Lo scopo qual era fondamentalmente? Lo scopo è decorativo, cioè uno si mette in casa una pittura di battaglia come si mette in casa una pittura di natura morta o un paesaggio. E per una volta vogliamo parlare di calcio senza parlare dello scandalo delle partite truccate. Aspettiamo che ci siano delle notizie reali. Vogliamo invece raccontarvi questa storia che è di calcio ma anche di vita. Salvezza, emozione, lacrime di gioia. Salvezza, speranza, lacrime di paura. Com'è strana la vita di un uomo di sport. Sulla panchina del suo Albino Leffe, una manciata di giorni fa, Emiliano Mondonico ha pianto per la più insperata delle salvezze. Ieri il mondo, l'uomo che fece mettere gli scarpini ai piedi a un certo Vialli e che si inventò il Torino dei giovani talenti negli anni 90, in lacrime ci è scoppiato ancora. Stavolta però per ricordarci che la sua partita più lunga, quella contro un tumore che già l'ha costretto ai box per un po' di settimane quest'anno, ancora non è finita. E allora il mister fa un passo indietro, si chiama fuori dalla prossima stagione perché lo impongono correttezza e serietà, lo meritano i suoi ragazzi, il suo club. Che non è facile avere il pensiero per la Binoletta e avere il pensiero per altre cose. In questo momento non è giusto che io possa dire ci sono tra un mese, quando magari ce ne vogliono più di uno. Coraggio, mister. Un passo indietro magari è il modo migliore per prenderla in contropiede, quella malattia. Sai che gusto, poi, sedersi ancora in panchina una volta vinta questa partita infinita? Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Alle 13:28 minuti è tutto per questa edizione di GR24. Alessio Maurizio in studio, Pietro Lacorte in regia. Vi auguro un buon ascolto col resto della programmazione. Tra poco Italia in controluce. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.